Ehi, è come al solito. Qua la gente parla, parla, parla, parla. Ma non mi conoscete manco per un cazzo. Ehi, il mio nome è Ricky. Ehi, from Assemini City. Ehi, e questo è il momento di conoscermi. Dicono di me, dicono di me. Perché dicono di me, dicono di me. Se non mi conoscono, parlano di me. Parlano di me, parlano di me. Se non mi ha mai visto, vivono di me. Vivono di me. Pure se io me ne infischio, loro puntano a me, loro puntano a me. Ok, ok, puntano a me. E non capisco il perché, dicono di me che non so vivere, che mi mancava fare rap per far ridere. Man è impossibile, man è incredibile, sono come il vostro gangster rap infottibile. E da ciò che dico no, me mi giudicano perché con la mia smoking gold rollo pure i vostri boss. Non chiederti perché, come con le Vigor Soul mastico le tue boy band. E we go again. Io non sono un drogato perché parlano di me se nemmeno mi hanno incontrato. E se non fosse per caso che il giorno ti avrei incrociato, tu non avresti sputato sul piatto dove hai mangiato. Dicono sei montato, dicono ineducato. La scuola è stata la prima a gridarmi sempre parato. La scuola mi ha derubato e ancora la gente parla, ma la stramaggiore maggioranza nemmeno sa la mia faccia. Dicono di me, dicono di me, dicono di me, dicono di me. Pure se non mi conoscono, parlano di me, parlano di me, parlano di me. Pure se non mi ha mai visto, scrivono di me, scrivono di me, scrivono di me. Pure se io me ne infischio, loro puntano a me, loro puntano a me, loro puntano a me. Tu sei un bastardo, sei uno stronzo, non mi piaci Ricky. Tu sei un codardo, poco conto, fai con i tuoi amici. Devi mollare, lascia stare, diceva mia madre. E ancora io non sento un cazzo di quello che dici. Quali nemici ho bisticci per pochi spicci che dici? Io voglio cicci e gli amici li lascio stare a te. Voglio la car, quale bici, cicatrici ne ho già. Parli di me se non sei neanche la mia età. Ho crisi di identità, io manco di serietà. Ed ogni domenica sto a letto e la passo in trance. Col viso giallo alla Homer, hai già perso game over. Lo stile 4x4 come un Land Rover. Sam Ricky lo dice il nome, ma il cash Gucci non ci sta. Eppure hai mandato a dire che giro con la gold card. Amico sei tutto scemo come quei green tip. The show must go on e fumo con i miei enemies. Dicono di me, dicono di me, dicono di me, dicono di me. Pure se non mi conoscono, parlano di me, parlano di me, parlano di me. Pure se non mi ha mai visto, scrivono di me, scrivono di me, scrivono di me. Pure se io me ne infischio, loro puntano a me, loro puntano a me, loro puntano a me. Dicono di me, dicono di me, dicono di me, dicono di me. Pure se non mi conoscono, parlano di me, parlano di me, parlano di me. Pure se non mi ha mai visto, scrivono di me, scrivono di me, scrivono di me. Pure se io me ne infischio, loro puntano a me, loro puntano a me, loro puntano a me.